come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Caro Parezzo, ti voglio leggere un paio di cose che così mi sono passate davanti questa mattina. La prima è dell'onorevole Maurizio Paniz del PDL, avvocato, credo anche presidente dello Juventus Club Montecitorio. Vabbè. Per tua informazione, così non è rilevante, però te lo dico. Perfetto. No, beh, ho capito adesso perché te la prendi così con gli juventini. In ogni caso, l'onorevole Paniz, a proposito della vicenda della nipote di Mubarak, no? Sì. Ruby, dice... il presidente, quanto ha telefonato in questura, cioè Berlusconi, aveva la convinzione che Ruby fosse la nipote di Mubarak, come risulta dalle testimonianze degli atti giunti alla Camera. In quel momento il presidente era ad un summit a Parigi e per evitare che la situazione degenerasse ha preso quella decisione agendo nella sua funzione di presidente del Consiglio. Si voleva evitare una crisi diplomatica. Cioè, con quella telefonata il premier voleva evitare una crisi diplomatica, dunque non voleva far liberare Ruby, no, per una serie di motivi che ormai sappiamo, eccetera eccetera, su cui naturalmente c'è ancora tutto da decidere, ma perché voleva evitare una crisi diplomatica, cioè sarebbe stato raggirato se proprio vogliamo utilizzare questa parola, da Ruby, che gli avrebbe detto di essere la nipote di Mamara, che lui ci avrebbe creduto. Infatti il dramma che sta scoppiando in Egitto è proprio legato a questo, probabilmente, no? Molto probabilmente anche a questo, cioè, certo. L'assalto che c'è in questo momento ai ministeri, l'esercito che spara, Mubarak, è legato al fatto che non è stata liberata subito la signorina, subito. Ma di che stiamo a parlare? E invece una intervista al Tempo formidabile dell'ex venerabile Licio Gelli, il quale dice... Anche parla lui, anche Licio? Parla anche Licio, sì, il venerabile. Finito? Dice: tutto definitivamente finito. Sono venuti a mancare certi principi, certi valori. Ecco, anche lui, Berlusconi, intendo, è venuto meno rispetto a quei principi che noi pensavamo lui avesse. Ricordi che l'ho avuto per 7 anni nella loggia, quindi credo di conoscerlo. L'ho anche aiutato quando ho potuto. Pensi anche a questo puttanaio delle ultime settimane, dice sempre il venerabile. Dice proprio puttanaio il venerabile? Sì, sì, puttanaio. Sia chiaro, è vero che può fare ciò che gli piace, di pare piace, come quanto vuole, ma bisogna anche avere la capacità di saperlo fare. Poi esiste pur sempre un limite. Invece lui continua, prima disfatto la famiglia, ora sta disfacendo l'Italia. Ma nessuno gli dice nulla. Ha commesso un reato, se è vero ciò che gli viene attribuito, e credo che almeno in parte sia vero, allora sì, non avrebbe dovuto farlo, o quantomeno avrebbe dovuto utilizzare sistemi più riservati. Insomma, un venerabile molto moralista, insomma, uno di quelli che dice: beh, puoi fare quello che vuoi, però non lo devi far sapere. Ed è un po' la posizione del sottoscritto, per esempio. Non so se la cosa ti inquieta, o dovrebbe inquietarmi. No, so. Ma anche se venerabile può dire delle cose intelligenti, non è che per forza deve essere. No, assolutamente. Più tardi un collegamento anche con Villa Wanda, direi, no? Ah, lo colleghiamo il venerabile? Beh, tentiamo naturalmente. Villa Wanda o Villa Arzilla, cos'è? Beh, no, Villa Wanda. Santoro versus Masi, cult ormai ieri sera ad anno zero. Devo dire che per quello che riguarda il fatto specifico, il direttore generale Rai ha fatto una figura barbina, insomma, diciamo la verità, quando uno si mette in collegamento con Santoro o sei preparato o ti attrezzi o hai qualcosa da dire e poi abbassi il telefono, ma se balbetti, se farfugli, se ti fai mettere in un angolo, insomma, ti dimostri inadeguato, come io credo sia. Ma al di là del merito, se vai a fare una telefonata o c'hai due palle, così come si dice in gergo, oppure rinuncia a sta telefonata. Che balbetti, dice sì, a lei ha violato le regole, no, potrebbe violare le regole, è una cosa ridicola, patetica. Sentiamo. Allora, chiedendo di nuovo al pubblico per favore di non applaudire, mi dicono che vuole intervenire il direttore generale della RAI Mauro Masi, prego. È in linea? Vuole parlare? Santoro, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. Come sai, io non sono mai intervenuto direttamente nelle sue trasmissioni, anche quando lei mi ha insultato in diretta, come sanno gli ascoltatori. Questa volta faccio un'eccezione perché... Come lei sostiene, non come sanno gli ascoltatori, come lei sostiene. Come sanno gli ascoltatori, come lo deciderà appunto la magistratura, poi lo vedremo più avanti, ma questo è un tema minore. Però. Quando lo deciderà lei potrà dire questo. Ma questo, lo ripeto, è un tema per il minore. Momento lei lo sostiene, non io dico di no. Non è il tema di oggi. E già qui traballava, diciamo, ma sì. Bacillava il direttore. Bacillava il direttorissimo, no, direttorissimo sono io. No. Scusa, Ancora. Mi sono sentito dover chiamare perché devo fare a tutela dell'azienda, che è l'azienda di cui sono direttore generale, di cui anche lei fa parte, soprattutto nei confronti dei cittadini ascoltatori, perché mi devo dissociare nella maniera più chiara, devo dissociare me stesso e l'azienda dal tipo di trasmissione che, come ho visto all'anteprima, lei sta impostando e come ha impostato la settimana scorsa. Per la visione, per il motivo molto semplice, che ad avviso mio e dei nostri legali viola in maniera chiara il codice di autoreventazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radio-televisive, i principi legislativi e costituzionali che ne sono alla base, un tema che è stato sollevato al più tardi venerdì scorso. Poi si è messo in questo pastrocchio il regolamento, eccetera, state violando le regole perché avevano sceneggiato una intercettazione, no? Nell'introduzione, poi uno non è che chiama la trasmissione all'inizio, al massimo chiama alla fine, no? Dice, certo. Avete fatto una porcheria, avete violato, perché all'inizio subito chiami, perché, vabbè, continuiamo. Quindi lei ci sta dicendo di non fare la trasmissione? No, io sto dicendo che lei fa la trasmissione. No, no, sempre... lei sta dicendo che questa trasmissione viola le regole. No, no, no. Lei io ha dico... la responsabilità di fermarla. Lei no, la ferma o no? Io vado in onda solo se sto rispettando le regole. Cosa fa? No, io le dico questo, che io non interrompo la trasmissione come non l'ho mai fatta. Allora ritira quello che ha detto, che noi stiamo violando le regole. No, io le dico semplicemente che ritiro me stesso e l'azienda. Si se vuole ritirare questo, se stesso, questo mi pare anche buono. E qui inizia. Qui dai. Qui inizia, l'apoteosi. Se vuole ritirare se stesso, che ha detto? Santoro, mi sembra anche buono, se vuole ritirare se stesso. 6-0, 6-0, dai, Santoro batte Masi. Ancora, andiamo. Noi stiamo violando le regole, sì o no? Risponda. Questo non sono io che lo devo dire, lo dovrebbe l'ha dire. L'ha appena detto, quindi lei si smentisce? No, non mi sto smentendo assolutamente, le sto dicendo. Allora che quello che ha detto cos'erano? Delle sciocchezze, cosa ha detto? Io dissocio me stesso l'azienda da un tipo di trasmissione che potrebbe violare il codice di autoreventazione. Ah, questo potrebbe detto, violare, certo. Detto, qualunque trasmissione potrebbe violare. Non è così, Santoro. Anche lei potrebbe violare qualcosa in questo momento. Potrebbe violare, o viola o potrebbe violare, poi uno aspetta alla fine per dire ha violato, potrebbe violare. Ma che uno che telefona a fare se non ha niente da dire? Non lo capisco. In realtà telefona perché, vabbè, questo me l'hanno detto oggi, c'è stata la telefonata di Silvio prima. Ah sì? Pare ci sia stata la telefonata di Silvio. Beh, pare, è più che verosibile. Pare. È più che verosibile, Oppure, non lo so, perché poi sai le fonti, eccetera, però, oppure per imitazione, o semplicemente perché se uno non lo fa... qualcuno potrebbe dirgli qualcosa, non lo so. Oppure perché è un grandissimo uomo aziende e ha fatto alzare gli ascolti. In verità noi scopriremo tra un po' che invece Masi è un grande uomo di comunicazione. Che c'è la conclusione, c'è la conclusione di questa vicenda, via. Lo sto dicendo in termini formali. Perché vabbè, abbiamo capito come lei, come direttore generale. Grazie, no, arrivederci, possiamo cominciare. Buonanotte. Buonanotte, sì, buonanotte. Scusate, la pubblicità è andata, Anno Zero può cominciare. E questo è, Anno Zero può cominciare, buonanotte. Vabbè, poi c'è stato un altro caso su cui andremo tra un attimo perché c'è un ospite qui in attesa. In realtà qui c'è una vittoria da registrare di Santoro, non c'è dubbio dal punto di vista mediatico, dialettico e tutto. Dopodiché poi oggi Santoro fa una conferenza stampa in cui dice che indice una manifestazione il 13 febbraio insieme a Travaglio per solidarietà davanti alla Procura di Milano, al Tribunale di Milano. Adesso va bene tutto, ma pure le manifestazioni, no? Le manifestazioni. Ma che media event? Stronzata pazzesca. Ma ti pare che Santoro indice una manifestazione? Ma siamo seri. Su. Ma siamo seri. Se noi ci divertiamo come matti, ma siamo seri, siamo seri. Manifestazione, avanti, l'audio di Santoro, su. Michele Santoro, Barbara Spinelli e Marco Travaglio hanno deciso di lanciare un appello e questo appello è così composto: il 13 febbraio, senza bandiere e simboli di partito, saremo davanti al Tribunale di Milano in difesa dell'indipendenza della magistratura, della libertà di espressione e dei valori fondamentali della Costituzione nata dalla Resistenza. Ma scusami un attimo, a parte la stronzata sulla Resistenza, ma no, ma una cosa, è un dato di fatto, ma non, ma, sì, appunto, ma voglio dire, ma mai come in queste ore, mai come in questi giorni, proprio c'è il massimo della libertà d'espressione, il massimo, intercettazioni pubblicate, giornali scatenati contro Berlusconi, legittimamente, ma dov'è la libertà di informazione minacciata? Dov'è la libertà dei magistrati minacciata? Non è che la telefonata di Masi o la telefonata di Berlusconi sia una minaccia alla libertà di informazione, siamo seri, siamo seri. Un tentativo di tenaglia. Ma quale tentativo di tenaglia? Sono delle cose ridicole e basta. Quale tentativo di mordacchia? Non essere banale su queste cose, no, mordacchia. Una dichiarazione all'Ansa, Parenzo, due punti. Ma quando tentativo? Mal riuscito. Purtroppo è un tentativo di servilismo, secondo me, nel caso di Masi, non solo ma riuscito, ma che mette nel ridicolo chi lo fa. Abbiamo il traffico, poi Francesco Paolo Sisto, PDL della giunta dell'autorizzazione a procedere, ieri cacciato da Anno Zero, buonasera. Diciamo cacciato, è stato molto divertente perché per la verità ho incocciato Santoro nei corridoi. Io innanzitutto voglio dire che, insomma, lui mi ha detto che è uno di Rocca Cannuccio, ma insomma io tutto sommato... Chi è di Rocca Cannuccio? Chi l'ha detto? No, dice, lui ha fatto una conferenza stampa, oggi ha detto io non voglio uno di Rocca Cannuccio. Ah, io dico che, insomma, ah, così ha detto? Sì, ma io sono ben lieto di essere di Rocca Cannuccio, se questo vuol dire... Vabbè, non è che avrà detto, figuriamoci, Santo, non è che ha detto non voglio uno di Rocca Cannuccio. Più o meno, voglio dire, lui è sempre stato molto... Più o meno, adesso magari la mandiamo in onda. Onorevole Sisto, traffico, torno subito con lei, Eccoci, caro Parenzo. Onorevole Sisto, allora, io da quello che so, al di là di questa questione di Rocca Cannuccia e del modo in cui Santoro l'ha trattato in conferenza stampa, poi sentiremo il tono e tutto, io sapevo una cosa, insomma, Santoro, Anno Zero, avevano invitato nell'ordine Cicchitto, Alfano, Ghedini, poi a un certo punto alle 8:30 di sera, alle 8 di sera di giovedì, no, adesso poi lei mi darà la sua versione. Ha chiamato Bonaiuti, per conto evidentemente del PDL, del Presidente del Consiglio, dicendo che nessuno si poteva presentare, o comunque Alfano non si poteva presentare, che era l'ultimo, diciamo, tra virgolette, prescelto, e lei sarebbe arrivato praticamente senza avvertire nessuno lì ad Anno Zero, vero o no? Guardi, no, io per carità, io sono molto, molto pacato, ma ti figuri se io mi presento senza avvertire nessuno? Le dico, io sono componente della giunta per l'autorizzazione a procedere, segretario. Sì. Siamo stati impegnati in giunta, io ho ricevuto nella pausa una telefonata, diciamo, dal partito. A che ora, scusi? Guardi, pomeriggio, abbiamo fatto la pausa alle 2:30, alle 3, una cosa di questo genere, in cui mi hanno preannunciato la possibilità che io andassi ad Anno Zero, mi avevano designato come, diciamo così, soggetto tecnico che doveva andare lì, io ho detto che ero disponibile, per carità, al partito non si dice mai no, e mi avrebbero poi successivamente fatto sapere, appena concordato, questa mia decisione. Okay, allora non è falso il fatto che nell'ordine erano stati convocati prima Cicchitto, poi Alfano, Ghedini o no? Le dico soltanto, io sono stato convocato nel primo pomeriggio, nella pausa della giunta, di seguito alla giunta poi ho ricevuto una telefonata di conferma di questa designazione, ho parlato con chi in qualche modo poteva darmi qualche indicazione sul trend e sulla tipologia della trasmissione. Con chi? Cerchiamo sempre di essere... Con chi ha parlato, scusi? Ho pagato con le segreterie, con la segreteria del Presidente Berlusconi, con la segreteria del Presidente Bonaiuti, con la segreteria del Ministro Alfano, cioè voglio dire, mi sono ovviamente informato su quelli che potessero essere gli ulteriori dettagli per poter consentire al partito di avere non soltanto un rappresentante laureato, tra virgolette, ma anche, diciamo, qualche modo... Scusi, ma lei l'ha chiamata direttamente Bonaiuti per dire va da Anno Zero o no? Bonaiuti o qualcun altro? Ma sì. Ci mancherebbe altro. Senta, guardi, io devo interrompere un attimo. Che deve fare? No, si è colpito. Guardi, continua, mi dica. Sì, mi ha chiamato direttamente Bonaiuti. Ma che sta facendo? Scusi, signor Sisto, che sta facendo? Guardi, io sono un avvocato penalista. Beh, questo lo sappiamo. Ho soltanto una piccola esigenza, un attimo solo, metto una firma. Prego, ecco, metta una firma. Sono suo fatto. Non che ha fatto? Ha messo una cosa importante. No. Sì, una firma molto importante. No. Una firma che devo mettere per forza perché c'è un atto che deve partire. Quindi... Per carità, per carità. Per carità. Senta, ma quindi, lei è arrivato a Saxa Rubra o dov'è? Questa, dov'è Saxa Rubra, no? No, agli studi della DER, credo che si chiami, no? Via Nomentana, sì, sì. È arrivato agli studi della DER, e dunque ad anno zero sapevano tutto che lei sarebbe stato il rappresentante del PD. Arrivato. Cioè, ha parlato con Santoro, con gli uomini di Santoro, con chi ha parlato? Sì, mi perdoni. Io ricevo una designazione nel primo pomeriggio dal partito, una conferma. Ma non è che il partito decide chi va, amico mio? Scusi, guardi, io sono semplicemente un deputato. Il partito mi dice che io sono designato per una trasmissione. Secondo lei devo chiamare io Santoro per dire se è vero? No, no, ma dico questo è chiaro, no. Magari lui non c'entra niente, Parenzo. E le parlo dei vertici del partito, mica le sto parlando, delle mezze calzette di Rocca Canuccia. Diciamo tutti quanti noi siamo in qualche modo, no, mezze calzette una guarda. Ma no, ma sto scherzando, molto spiritoso. Era una battuta, sisto, una battuta. Ma io un'altra, cioè le dico che è stato un episodio molto divertente, anche molto formativo. Perché tutto sommato ho capito come la nostra informazione pubblica viene gestita, cioè ad trombam se potessi, anzi, cioè, ad trombonem se potessi usare questa espressione. Cioè, questo è interessante. Ecco, ora glielo racconto subito. Allora, designato dal partito, sì. Arrivo, mi fanno entrare, scendo, nello studio c'è la Bindi, c'è Mieli, c'è Belpietro, sì. Arrivo là, bene, cominciano, mi mettono delle carte addosso che cominciano a truccarmi, arriva uno e dice: no, guardi, mi dispiace, lei. Dico: ma come? Ma uno chi? No, lei. Guardi, credo che fosse, che se mal non ricordo, un vice direttore, un nome, non ho idea. Uno che si occupa del programma, insomma. Esattamente, guardi, lei no, come no? Dico, un capo struttura. Mi faccia parlare con il dottor Santoro. Sì. Ah, ma no, ma sì, ma no, insomma, voglio dire, mi faccio indicare dov'è il suo camerino e mi dirigo, guardi, insomma, gli attributi li metto sul tavolo e vado verso questo, sì, camerino e lo vedo venire. Dico: ti guardi, buonasera, io sono l'onorevole Sisto, designato dal partito per partecipare a non zero. Ah no, ma io qua volevo Cicchitto, non viene Cicchitto. Guardi, io non so lei che cosa dice. Le dico soltanto che io sono stato designato dal PDL. Sì. Sì, guardi, facciamo una cosa, lei completi, sì, le firme, le telefonate, noi fra un quarto d'ora la richiamiamo, va bene? Bravo, bravo. Non c'è problema, firme, importante, sentiamo un po' che sta succedendo, ha abbassato il telefono. Vabbè. Pronto? Ha tirato Sisto? Giù il telefono. Sisto, pronto? Sisto di Rocca Canuccia? Signor Sisto? Bam, bam, bam, bam. Anno zero può cominciare. Vabbè, abbiamo Sisto di Rocca Canuccia, dai, ma che storia pazzesca, su, ma come si fa? Stiamo sentendo in diretta dallo studio. Sì, ma è una storia pazzesca, no? Primo, dallo studio di avvocato dell'onorevole Francesco Paolo Sisto, che naturalmente si è accorto e adesso ha messo giù. Vabbè, e poi ci spiegherà quello che è successo con tutto questo scontro tra Santoro, che dice: lei, onorevole Sisto, io volevo Cicchitto, volevo quello. Ha ragione, scusa, ma che gli inviti li fa Bonaiuti o li fa? Sì, effettivamente Santoro voleva Cicchitto, Alfano, Ghedini gli hanno dato, con tutto il rispetto, l'avvocato, certo. Sisto. Magari... Che però sembra essere anche simpaticissimo, perché. Infatti, però magari ha sbagliato, magari ha sbagliato Santoro. Ci sentiamo alle 19:15 con il misterioso avvocato onorevole Sisto. 800 24 00 24. Qui, caro Parenzo, 19:19, ecco. 800 24 00 24. Entriamo sempre con grande ritardo, vabbè, lasciamo perdere questo argomento. Andiamo a sentire i titoli del TG3, mentre è tornato in collegamento con noi dopo una sortita al TG4 l'onorevole Francesco Paolo Sisto, protagonista ieri ad Anno Zero, protagonista mancato in realtà, ci stava raccontando... Occulto, protagonista occulto, diciamo, in tutti i casi protagonista, perché ha una trasmissione senza il contraddittorio che il servizio pubblico deve garantire, mi vede comunque protagonista. Senta Sisto, poi ci racconterà questo incontro nel camerino, una sorta di scontro. No, non è stato nel camerino, è stato mentre Santoro fuoriusciva dal suo camerino nel corridoio, è stato un classico incontro di corridoio, se potessi usare questa espressione, anche molto sgradevole. Poi adesso ci racconto. Ma molto volentieri. I titoli del TG3 intanto. La rivolta in Egitto, i militari sparano, almeno 10 morti, l'esercito nelle strade e la TV di Stato, carri armati a Suez. La Minetti, il 1 febbraio, dai magistrati che indagano sul caso Ruby, prestissimo la richiesta di giudizio immediato per il Premier. E scontro su anno zero, il governo si appella all'autority, Santoro in piazza Milano per sostenere i PM, Masi la misura è colma. Berlusconi, vado avanti, PDL a febbraio in piazza, Fini deve dimettersi, ma Bossi frena, meglio tenere i toni bassi, Lega in piazza, vedremo. Il PD, istituzioni in pericolo, bisogna fermare Berlusconi, il terzo polo, il premier ha fallito e non ha più voglia di governare. Migliaia di metalmeccanici in piazza per lo sciopero della FIOM contro gli accordi Fiat, Landini chiede lo sciopero generale. La litizzetto su Ruby, ci vorrebbe un sindacato delle escort tipo FIOM e replica la Santanché. Improvvisamente, con un passi che non capisco chi è che abbia firmato, ma sicuramente non persone della mia redazione, si presenta l'onorevole Sisto, il quale in una nota ho letto che è andato al trucco, no? Non so quali trucchi abbia escogitato mentre mi aspettava, perché al trucco non risulta nessuna presenza di onorevole Sisto e quant'altro, non so chi l'abbia fatto entrare. Vedo l'onorevole Sisto alle 9:05 e lui mi dice: io sono l'uomo che il partito ha designato. Ho detto: mi scusi onorevole, io non sono abituato a trattare così le persone, però sono costretto a dirle che lei è venuto alla festa senza invito. Se io vado in prima serata, devo avere dei protagonisti in grado di reggere la prima serata. Non mi possono dare un protagonista che viene da Rocca Cannuccia come Totò e dire: ah no, ma tu con questo ti devi adattare perché l'ha designato il partito. Questa è la ricostruzione di Santoro, caro Parenzo. Questa mattina stavi ridendo in maniera crassa, mi sembra, o no? Sì, per la musica, per come l'hai montato, la che c'è il dramma. È un grande questo Santoro. Bisogna riconoscere che è un grande. Allora, onorevole Sisto, innanzitutto. Nulla togliere a Sisto di Rocca Cannuccia. No, perché onorevole Sisto, allora, innanzitutto, questo passi, chi ha dato sto passi? Guardi, io sono arrivato agli studi, ho detto chi era. C'era uno che mi ha preso e mi ha portato giù, punto. Dunque, in realtà qualcuno sapeva, perché altrimenti... Certo, c'era uno che mi stava aspettando, per la verità. Io sono arrivato, mi hanno preso e mi hanno portato giù. Sono entrato Bel Pietro con la macchina, io sono entrato molto più modestamente a piedi. A piedi, com'è arrivato agli studi, col taxi? Com'è arrivato? In taxi, capisci, io sono un onorevole, diciamo... abbastanza con i... Ma chi gliel'ha pagato il taxi? La produzione di Anno Zero? Chi gliel'ha pagato? Chi gliel'ha pagato il taxi? Io ho parlato, no, nessuno me l'ha pagato. Ah, ecco, quindi non c'era nessuno che non lo dovesse pagare. Io ho parlato con il partito, ripeto, prima di partire, chiamato la segreteria di Bonaiuti, ho avuto conferma, quindi voglio cioè dire. Il problema è questo, Bonaiuti non ha avvertito Santoro, questo è il punto. È ben chiaro. Secondo lei Bonaiuti ha avvertito Santoro o no? Voglio che sia chiaro. Io sono uno che tutto sommato fa il professionista da 35 anni. Sì, ma questo nessuno lo mette in dubbio. No, ascolti. Faccio, ahimè, anche professore universitario, le dico soltanto che non c'ho tempo da perdere. Se il partito mi dà un incarico, io adempio, sono un soldatino adempiente. No, ma infatti io non me la so. No, ma detto questo, no, sì. per chiarire. Sì. Perché insomma tutti quanti. Scusi un attimo, io voglio capire una cosa. Una cognizione molto precisa. Bonaiuti, ha chiamato Santoro secondo lei o no? Mi sembra di capire di no. Io non so quali fossero le intese, né sono tenuto a conoscere le intese o gli accordi di Santoro. No, per quello che la riguarda, no, effettivamente non le dico. Io mi sono presentato su un input preciso e, come posso dire, reiterato, chiaro e netto, per dirle, insomma... No, è chiaro, Parenzo, scusi... tornato a casa molto volentieri. Scusi un attimo, onorevole Sisto, no, scusi un attimo. Parenzo, su questo ha ragione, però. Cioè, se Bonaiuti dice all'onorevole Sisto, vai da Santoro, lui immagina, l'onorevole Sisto, immagina che... Ma non soltanto... Ma no, dice, vai da Santoro, ti chiamerà la produzione del programma. Aspetta. Voglio dire, insomma, ecco, c'è stato... Guardi, la designazione interna al partito è netta e chiara. Il punto è un altro. Io ho avuto poi la sensazione che questa designazione, ma glielo dico con la franchezza, sì, non essendo in linea con le aspettative di Santoro, che un tecnico non lo voleva, secondo sì, me, è una mia impressione. No, certo, certo. Beh, un tecnico, cioè uno capace di dirgli che i processi sono processi e il fango mediatico è un'altra cosa. Vabbè, vabbè, vabbè. No, le dico, no, io sono capace, ripeto, con molta pacatezza. La sì, mia impressione è stata che un tecnico non fosse gradito, cioè uno che come me si è letto. No, scusi, però Santoro voleva ho capito, ma Santoro evidentemente voleva un politico, detto con tutto rispetto per lei, voleva un politico di primo piano, ecco, insomma, mi pare comprensibile o no? Cioè, io secondo me lui voleva un politico e non un tecnico. Io sono un tecnico che fa politica. Vabbè, ma però questo qua è compito di Santoro, cioè la trasmissione, gli ospiti. Ma come non è compito suo? Gli ospiti li sceglie Santoro, non è che sceglie Bonaiuti. Scusi, no, ma non lasci perdere chi li sceglie. Bisogna garantire comunque il contraddittorio. Il servizio pubblico. Ho capito, ma se uno. Che una trasmissione del genere, scusi, vada in onda senza un contraddittorio. E che doveva fare a quel punto, una volta che dal partito hanno mandato lei e non Alfano, non ma chi io altro? Non so, guardi, questo non è un problema né mio, secondo me, neanche di Santoro. Torniamo al trucco. Lei c'è stato il trucco o no? Scusi, non mi faccio parlare. La garanzia del contraddittorio. Della par condicio. Vabbè, ma adesso questo se ne occuperà. Del servizio pubblico. Cioè, Santoro non si può permettere di sindacare mortificando il contraddittorio. Non gli è consentito. Lui è pagato da lei e da me. E non lo può fare in virtù di una sorta di cultura, secondo me, totalitarista, che non appartiene alla nostra democrazia. Ora, facciamo un discorso serio. C'era Belpietro, lei dice c'era Belpietro, ma non è un uomo di partito, è un giornalista. Non è un uomo di partito, lei è un giornalista. Parlo con una persona competente. No. Le dico, trasmissione senza contraddittorio. Vabbè, questo ho capito benissimo. Adesso se ne occuperanno le sedi competenti. Se io fossi quello che fa scivolare Santoro, non è che mi dispiacerebbe, divento veramente protagonista. Male. Ma al trucco c'è stato lei o no? Io le dico le cose come sono andate, senza inganno e senza trucchi, giusto per recuperare. Ma siccome Santoro dice che lei al trucco non c'è passato. Guardi, io sono entrato nella stanza in cui c'erano la Bindi, Belpietro e Mieli. Appena sono arrivato, l'hanno riconosciuta? L'hanno riconosciuta? Ti dico quello che è successo: mi hanno messo due fogli di carta dietro il collo della camicia bianca, cravatta blu e giacca blu, e hanno cominciato con dei batuffoli a. Dopo 12 secondi di questa operazione è arrivato questo signore, così è andata, guardi, né più né meno, poi sa che c'è, probabilmente era un trucco, ha ragione lei. Senta, ma di fronte a Santoro, insomma, la cosa è andata come dice Santoro, in maniera molto pagato oppure è stato maleducato? No, guardi, non è stato per niente, è stato, come posso dire, un crescendo quasi rossiniano. Cioè? Mi sono presentato, guardi, ma lei, ma qui, colà, io sono stato inviato dal partito per la par condicio, perché per partecipare a questo partito. Ma io ne faccio a meno, meglio così, non c'è, insomma, poi le dico la battuta, diciamo, blu. Io glielo dico in italiano corrente, dico, guardi, lei può anche parlare italiano corrente, ma politicamente scorretto, così gli ho detto. Poi a un certo punto, faccio come dico io, insomma, voglio dire, lei conosce il concetto di intolleranza. No, ma capito, che ha detto? La frase esatta qual era? Quello che le ho riferito. Faccio come dico io. Sì, qua decido io, nessuno mi può imporre niente, meglio che non ci siete, una cosa di questo genere. Ora, come meglio che non ci siete? Sì, in queste condizioni meglio così, una cosa di questo genere. Ora, voglio dire, non posso avere il dono della memoria. Sono sincero, ero molto incazzato, perché secondo me, voglio dire, venir meno ai principi di par condicio in una trasmissione dedicata alla demolizione sistematica di un partito del presidente, non mi sembrava il massimo. Allora, ha chiamato Masi lei? In tutti i casi, voglio dire. Ma Masi chi l'ha chiamato? L'ha chiamato lei, Masi? No, ma l'intervento di Masi è stato sollecitato da lei, no? Non ho capito. L'intervento di Masi è stato sollecitato da lei, no? Ma sta scherzando. No, che ne so. È una domanda legittima. Ma cioè, secondo te io chiamo Masi? Perché la questione, scusami, è molto semplice. C'è questo doppio giallo. C'è un doppio giallo. Da una quindi parte un'esclusione. Quindi un rosso, un doppio giallo e un rosso. Adesso, per carità di Dio, sì, sto simpaticissimo. Ma un doppio giallo. Il primo giallo è come mai Masi chiama subito dopo l'anteprima di anno zero. Subito dopo chiama. Evidentemente qualcuno in quel frattempo ha avvertito Masi che non ci sarebbe stato nessun interlocutore del centro-destra. Questo lo apprendiamo alla Zanta questa sera, mi sembra fantastico. Secondo giallo, Sisto, in genere glielo dico per i prossimi inviti che le faranno in trasmissione, perché da stasera lei sicuramente sarà protagonista di molte trasmissioni. Funziona così: la produzione del programma, una volta che si è messo d'accordo con Bonaiuti, se davvero lei è ospite, la contatta e le dice: guardi, allora l'aspettiamo in questi studi via Tal dei Tali a quest'ora. Guardi, io ho ricevuto, le mandano la macchina, lei arriva. Questa è la liturgia. Sì, ho capito. No? Sisto, guardi, dice che è stato il partito a dargli l'indirizzo degli studi. Ma che c'entra il partito con la redazione di Anno Zero? Non c'entra niente. Io ho bisogno di farmi venire a prendere. Lo so, io sono stato ad altre trasmissioni, qualcuno ti viene a prendere. Io personalmente preferisco essere autonomo, perché così posso andarmene all'ultimo momento, non vado mezz'ora prima. Sisto, la devo lasciare con la pubblicità. Grazie. Grazie, arrivederci. A presto, pubblicità, borsa. Eccoci qui, caro Parenzo, Berlusconi sta parlando sempre ai promotori della libertà, ai promotori della libertà. Tanto lavoro hanno questi promotori della libertà. E sta dicendo un sacco di cose: opposizione unita solo dalla volontà di farmi fuori, riforma della giustizia per ristabilire la separazione dei poteri, non sono premier per caso, accuse grottesche e inverosimili, solo fango, non è un paese libero se la privacy viene violata, c'è addirittura una diretta, mi dicono, sul TG4, c'è stato Berlusconi in diretta a TG4, poi ancora vado avanti nell'interesse del paese, opposizioni deboli senza leader né programmi, dunque Berlusconi che va avanti. Ascoltatori all'800240024, dopo l'esploit dell'onorevole Sisto, onorevole avvocato Sisto, invitato e poi successivamente messo alla porta ad Anno Zero. Certo, la situazione è paradossale, addirittura comica, addirittura comica, perché onorevole... Non l'ha invitato nessuno, l'ha invitato, scusa. Beh, sembra che l'abbia invitato Bonaiuti però ad andare, ma siccome il programma non lo decide Bonaiuti, come si fa e quegli ospiti ci sono, evidentemente c'è stata una mancata comunicazione, magari voluta, tra Bonaiuti e lo staff di Santoro. Va bene. Bruno, provincia di Vibo Valentia, buonasera. Sì, buona serata a lei, dottor Crociani. Dica. Grazie per avermi richiamato. Senta un po', io volevo dire questo, la mia modestissima. Berlusconi ha anche detto che non si presenterà ai magistrati, anzi che si presenterà, ma non a Milano. E dove? Pensa che i magistrati di Milano non abbiano competenza, questo è legittimo, naturalmente pensarlo, e poi non decide lui. Su questo. Non decide lui, questo è il punto. Sì, non decide lui, però è legittimo opporre la questione della competenza dal punto di vista della difesa, è legittimo, non c'è dubbio. Sì, da imputato, certo che c'è, cioè, da indagato è legittimo. Peccato che l'indagato sia anche presente del Consiglio. Vabbè, ma questo è un altro discorso, che c'entra? Vabbè. Bruno. Dica, Bruno. Allora, innanzitutto ho detto prima, forse non mi ha sentito, buonasera. Sento, ho capito, dire buonasera. Cosa. Io di solito ascolto Zapping, sì. E la sua, ecco, è la sua trasmissione, l'ascolto, però mi deve lasciare parlare per cortesia. Bruno, siamo qui, lei già mette le mani avanti, dica. Sì, perché l'ascolto, no, metto le mani avanti perché l'ascolto la replica di notte, io sono un autista, quindi sì, mi sveglio la notte. Bene. Il popolo, il proletariato, italiano, esatto, quello che fa girare diciamo il PIL. Sì, il PIL, non senta, un'altra cosa. Sì. Sento un po', io ascolto Zapping. Ho capito, Bruno, è la seconda volta che me lo dice. E quello è il problema. Senta, io la sua trasmissione, sa come la definisco? Trasmissione monnezza, come dicono i miei colleghi da Napoli, trasmissione monnezza. Benissimo, che meraviglia. Che cosa, ecco, meravigliosa. È una trasmissione monnezza, perché voi, lei e il suo amico bolscevita lì, Parenzo. Bolscevita è una cosa, bolscevica è un'altra. Come sorride. Beh, come sorride il suo amico Parenzo. Vabbè, come sorride, perché se uno dice bolscevita, io sono un bolscevico, che devo fare? Vedi com'è, vedi. No, com'è. In realtà è un bolscevita, non bolscevite. Sì, voi mi sembrate due giocatori di ping pong, no? Sì. Che fate finta, cioè che fate finta di essere un avversario dall'altro, ma in fondo, capito? Siamo, cioè, bolscevichi, siamo bolscevichi tutti e due. Sì, tutti e due. Tutte e due siamo bolscevichi, sì, ma sì. Lei si nasconde dietro a una veste, ma sa quanto. Perché io di notte proprio mi indigno, o se no dico la parola mia e mi incazzo, sì. Proprio sentendo così ipocrita, no? Che lei dice di essere imparziale, ma no, voi siete due comunisti sfigati, ve lo dico io. due comunisti spiegati. Se io se fossi lei, dottor Crociani, se sì, fossi lei, sì, io i soldi della Mediaset, sì, di Controcampo, oppure sì, quella trasmissione che ha fatto l'altra sera lì, sì, sulla seconda guerra mondiale, io non li prenderei i soldi da Berlusconi, perché mi fanno schifo. Ma come veramente sarebbe, a me non mi fanno schifo i soldi, comunque. Ma siccome i soldi... Vabbè. Siccome i soldi non hanno odore, allora lei va dappertutto. Dici, ma che me ne frega, tanto ci parlo male di Berlusconi, a me i quattrini me li dà lo stesso e buonanotte. Ma non vedete, cioè, vi rendete ridicoli. Nuova sigla della Zanzara, ricorda, intanto. Scusi, Bruno, nuova sigla della Zanzara. Era rossa la trionfera, e viva il comunismo e la libertà. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso, vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua. Poi non lo so più, Parenzo, tu la sai? Fuori il cannone, rivoluzione, dobbiamo far... Bruno! Allora... Grande, Bruno. Un'altra volta avete... Comunque niente, il mio discorso era questo, perché... Scusi, ci può dire esattamente... Caro Bruno. Con quella di Zappi, che non ha niente a che vedere. No, non per carità, no. Assolutamente. No, infatti... Io vorrei sapere, no, che sì, scusi... Mi può dire esattamente qual è il suo paese, la sua cittadina, scusi? La mia è Terra San Bruno. Terra San Bruno. L'indirizzo però. La mia città natale è sì, Terra San Bruno, dove c'è la Certosa. Benissimo, no, ma l'indirizzo esatto anche, perché sa. No, io preoccupi che l'ambulanza io la manderei da voi l'ambulanza, no? Arriva, gli dato parte l'ambulanza, Scusi un attimo, Bruno, se mi dà l'indirizzo esatto però, perché non è che la io la manderei da voi, da voi, perché anche mia nipote che ha 4 mesi l'altra sera mi ha detto: papà, ma i comunisti da dove sono usciti questi come qua? Scusa, 4 mesi parla già, ma che dice? Parla. Ma questa ovviamente è una battuta, mandiamone un'altra, la bambina di 4 mesi che parla già, mandiamone un'altra. Ma questa era una battuta, ovviamente, non so, lei è così intelligente, ma lei sa perché lei odia Berlusconi? Ma io non odio nessuno. No, io si rivolge a me. Parenzo, ma le posso dire perché le odio così? Oddio, non ce la faccio. Perché lei nelle rete Mediaset non andrà mai a lavorare. Questo mai, non posso questo è sicuro. Ma questo lei è certo. Nelle rete Mediaset non andrà mai a lavorare, perché lei fa parte di quella cosa di Santoro. Di qualcosa, gli infermieri, intanto, Parenzo. E tutta quella Parenzo, di qualcosa, sì, gli infermieri. Attrezzatevi velocemente, perché con gli infermieri con un giubbettino bianco. A lavorare in Mediaset a prendere i soldi di Controcampo, va bene? Siamo arrivati. Sia calmo, Bruno. Accosti con la macchina, amico mio. Mi spiegate una cosa, quando esce di fuori Berlusconi, esce fuori di scena, che cosa parlerete? Sì, va tutto bene, sì. Di che cosa parlerete? No, voi questo mi dovete dire, di cosa parlerete? Io l'altra sera ho sentito Parenzo, un po' di trasmissioni fa, no? Sì. Che diceva che Berlusconi si doveva ritirare, poverino, con quella voce di Parenzo. Secondo me Parenzo, da quella voce, ma ho l'impressione che è più amico di Vendola. L'omofobia mi sembra una cosa un po'. Con quella voce uno che è un po' che c'è un po' di scappamento. Ecco, con che cos'è che si dà da fare, non ho capito il bene. Tubo di scappamento, diciamo noi, la marmitta, ce l'ha presente la marmitta del camion? Sì, io tanto ho presente. Scusi, Bruno, fermatelo. Diciamo così, il tubo di scappamento con quella cosa. Ho capito, Bruno, però lei, siccome stanno nelle vicinanze, però non hanno ancora l'indirizzo esatto, potrebbe specificare la via, perché... La via esatta, scusi. Non si preoccupi, che io guardi, che chi vuol sentire capisca bene quello che vuole. Vabbè, tanto col GPS ci arrivano, non si preoccupi. Hanno il cellulare, hanno tutto, non si preoccupi. Non si preoccupi. Tutto a posto. Ci chiami dalla clinica, amico mio, che la degenza sarà lunga. Ogni notte sentire questo qua che sorride, proprio questo. Ma perché hanno chiuso i manicomi? No? Scusami, ma chi è che ha chiuso i manicomi? Berlusconi, delle ragazze, cioè. Vabbè, caro Bruno, stanno arrivando. È logico, stanno arrivando, mi raccomando. Ma non con quella voce. voce, dove si presenta? No, si presenta? Mi raccomando, gli altri in ospedale, tratti bene i suoi colleghi. Ma io parezzo, con quella voce, dove si presenta con le ragazze? Dove si presenta? Mi faccio capire. Ma come con le ragazze? Pure per televisione. Ma mica tanto bello, Poverino. Mi viene a dire che Berlusconi è un poverino, un povero vecchio che dovrebbe star lì sulla carrozzella con la coperta. Allora vuol dire che non ha rispetto neanche per le persone anziane. L'ambulanza va mentre la città finalmente. Eccoci qui. Non so se c'è ancora Bruno, poi magari lo richiameremo perché per sapere dagli infermieri com'è andata, naturalmente, perché magari ci mettono un po' a, no? Non è facile. Ma io ho paura degli infermieri a questo punto. Beh, infatti anch'io sono preoccupato. Il soggetto era molto agitato. Sì, molto agitato. Per cui magari ci mettono un po' a, sai, con le camicie, no? A mettere. Quello ce ne vuole più di una, il poverino. Però insomma adesso speriamo di aver dato le indicazioni giuste. Abbiamo dato il numero di telefono, tutto. Sapere che c'è un soggetto così in giro a piede libero è pericolosissimo. Giuseppe D'Andria. Comunque simpatico. Sì, molto simpatico. Giuseppe D'Andria. Ah, eccomi, buonasera. Dica. Grazie, dottor Cruciani, per l'opportunità. Un attimo, c'è Berlusconi che parla. Che succede qua? Il 14 dicembre abbiamo vinto contro due sfiducie individuali ai ministri Calderoli e Bondi, il 22 dicembre e 26 gennaio. Abbiamo vinto con l'approvazione della riforma dell'Università del Ministro Gelmini il 23 dicembre, con il decreto per Napoli convertito. Vabbè, e Berlusconi in questo discorso al sito dei promotori della libertà, caro Parenzo, dopo sentiremo alcuni passaggi. 800 24 00 24. Intanto alle 19.47, prima di collegarci di nuovo con Giuseppe D'Andri, Enrico da Prato, Francesco Pavice Reggio Emilia, Rinaldo da Roma, beh, insomma, un ospite di primo piano, caro Parenzo, un personaggio che sta facendo discutere molto a Napoli, sì. Perché Andrea Cozzolino, vincitore delle primarie, possiamo dire? Possiamo dire assolutamente. Beh, vincitore delle primarie a Napoli. Buonasera. Buonasera a voi. Nonché europarlamentare. Cozzolino, siamo venuti a Bruxelles, lei non c'era, è una cosa pazzesca. Quando siete venuti a Bruxelles? E siamo venuti a Bruxelles, io e Parenzo, l'altro giorno. Da martedì a giovedì, amico mio, lei era a Napoli. Della campagna delle primarie, non... Lo so. La prossima settimana per votare. Il signor Cofferati ci ha detto che lei però gli ultimi mesi a Bruxelles per la campagna elettorale napoletana. Ha ragione, il mio amico Sergio Cofferati ha ragione, sono negli ultimi due mesi. Avevo il record delle presenze prima, però adesso da due mesi sono impegnato a Napoli. È un po' rarefatta. Senta, vuole rispondere subito, anche se l'ha già fatto prima sull'agenzia, ma ce lo dice anche a noi qui a Radio 24, alla Zanzara. Bersani ha detto lei dovrebbe fare un passo indietro. La sua risposta qual è? Così, due punti, Cozzolino. Che sia io che Bersani siamo interessati a ripartire dallo straordinario voto di domenica. No, 43, lei è... 45.000 elettori che hanno partecipato al voto e poi quel risultato che ha determinato un vincitore delle primarie. Si riparte da lì e poi si discute con la coalizione, con i cittadini, le scelte che dovremo fare nelle prossime settimane. No, scusi, Cozzolino, un attimo solo. Cosa si dovrebbe discutere? Cioè, qui ci sono due questioni. O lei dice io sono il vincitore e sono il candidato del Partito Democratico del centrosinistra, oppure si rifà tutto. Cioè, non è che ci sono vie di mezzo, si rifà tutto, cioè si azzera tutto e poi si decide il modo in cui designare un altro candidato. Due sono le questioni. Lei si sente ancora il vincitore? Assolutamente sì. Dunque, lei sente vincitore? Non ci sono stati brogli. No, attenzione, Cozzolino, alle accuse che ci sono stati brogli e... Questa storia degli imbrogli è stata una discussione anche molto amara, perché ha colpito e ferito tanti cittadini che hanno partecipato domenica alle primarie. Sono stati fatti dei rilievi mentre si stava svolgendo la proclamazione. Questi rilievi sono privi di qualsiasi fondamento. Noi stessi abbiamo presentato una documentazione che risponde punto su punto alle osservazioni che sono state fatte. Io sono il primo a chiedere chiarezza su tutta questa vicenda, perché sono la prima vittima. Avendo vinto legittimamente le elezioni primarie a Napoli, sono come dire, il protagonista principale è interessato, insieme ai cittadini che hanno votato, a sapere che cosa è successo domenica. Non c'è dubbio, allora su questo do pienamente ragione. Sai Parenzo, il punto è uno solo: ma si può, come dire, mettere in dubbio la vittoria di qualcuno quando ancora la questione dei brogli e di altre cose non è stata accertata? Io questo l'ho trovato veramente una cosa assurda, sì, francamente. Però bisogna fare un passo indietro per capire. Mi sembra una di quelle classiche situazioni in cui invece di un regolare svolgimento di un confronto anche di merito ci siamo trovati di fronte a una sorta di tribunale del popolo, diciamo così, per cui si sono annunciati dei problemi e si è bloccata la proclamazione. Non scusi, in nessuna parte del mondo una cosa del genere. Ecco, appunto, non succede in nessun altro del mondo che si mette in moto un meccanismo, le dice la tribunale del popolo, cioè in questo caso il tribunale del popolo che cosa è stato? Il partito? E chi è? Guardi, diversi fattori. Io mi sarei comportato diversamente. Se il risultato di domenica sera fosse stato sfavorevole alla mia proposta politica, avrei stretto la mano a tutti gli altri candidati e soprattutto al vincitore, e mi sarei messo con lui a lavorare, diciamo così, per Napoli e per il futuro di Napoli. Non è accaduto questo mi dispiace molto. Spero di poterlo fare nelle prossime ore. Ecco, ma il capo di questo tribunale del popolo, il presidente, chi è stato? Bersani, tanto per restare nella metafora. Non ci mancherebbe, cosa c'entra Bersani? Beh, lei dice, si è messo in moto un meccanismo da tribunale del popolo. Bersani ha fatto una scelta molto importante, ha commissariato il partito a Napoli. Vabbè, ho capito. Questo ristabilirà un minimo di equilibrio, di saggezza di fronte alla faziosità di chi ha diretto il partito a Napoli e ha creato un caos terribile, gettando un'ombra davvero pesante sulle primarie che abbiamo svolto domenica. Però scusi Cozzolino, Bersani è anche quello che le ha detto di mettersi da parte. Ho capito, cioè, come risponde al segretario su questo? Allora io ho già detto, Bersani si è rivolto a tutti i candidati. Sì, però prima di chiedere una risposta, prima di avere una risposta da me, io voglio sapere come si sono concluse le primarie, se la giornata di domenica è stata una giornata, come io penso, tranquilla e straordinaria di partecipazione dei cittadini, e se il vincitore delle primarie sono io. Quando si accerterà e si verificherà tutto questo, risponderò anche a Bersani. Senta una cosa, ma c'è una commissione che decide questo. Sì, cioè, sì, c'è una commissione che sta indagando. Il casino è saltato fuori non perché qualcuno si è alzato, qualche signor X qualunque, l'ultimo militante si è alzato e ha detto no, qui non funziona niente. C'è una commissione che evidentemente ha bloccato il procedimento. Ma al di là delle questioni tecniche, voglio chiedere una cosa a Cozzolino, che è questa. Le accuse al nostro interlocutore che la commissione, come succede in qualsiasi posto civile, proclama il vincitore. Dopo che avviene la proclamazione si discutono i ricorsi. Quindi la commissione è corrotta, quindi la commissione ha sbagliato. Assolutamente sì, anche per questo ho chiesto un rispetto delle regole civili, democratiche, diciamo, da questo punto di vista, che sono poi le regole che hanno informato la preparazione e la costruzione anche delle primarie. Senta una cosa, la questione dei cinesi che è stata sollevata da Veltroni e da altri, come la giudica? C'è troppi cinesi in fila a votare? Guardi, intanto in quel seggio a cui si fa riferimento non ho vinto io, quindi non capisco perché Veltroni la carica sulle mie spalle questa cosa. Poi, come è stato detto e ricordato, diciamo così, da tanti, e da anni che alle primarie gli immigrati partecipano ai nostri appuntamenti. È nello statuto del Partito Democratico chiedere il coinvolgimento e la partecipazione degli immigrati regolarmente con un contratto di lavoro nei comuni e nelle. E questo è accaduto puntualmente sia quando si è trattato di Romano Prodi nel 2008, sia quando si è trattato di Walter Veltroni nel 2009, sia quando si è trattato di Bersani, diciamo, nel 2009, le ultime primarie. Molto chiaro. Senta una cosa, se dovessero azzerare. Io penso che solo per le primarie di Napoli ci si fa scandalo sui cinesi piuttosto che sui pakistani a Milano o sui rumeni, diciamo così, a Roma. Guarda, sono d'accordo con lei al 100%. Un'altra cosa però le voglio chiedere: è vero che lei, se si dovesse azzerare tutto, è pronto a candidarsi comunque? Io ho preso un impegno con i cittadini e con gli elettori che mi hanno sostenuto. Ogni decisione la prenderò con loro. Adesso comincio un lungo giro con la città a incontrarli nelle prossime giornate. No, ho capito, però facciamo un'ipotesi, Cozzolino. Cioè, l'ipotesi è che il partito, che è un'ipotesi seria, possibile, anzi probabile, che il partito azzeri il risultato delle primarie. Cosa succede? Lei cosa fa? Se questo non accadrà, il Partito Democratico. Che cosa sarebbe? Una violazione, un golpe? Come lo definirebbe? Assolutamente, ma il Partito Democratico, diciamo, non consentirà, il suo segretario nazionale non consentirà mai l'azzeramento delle primarie a Napoli. Cioè Bersani non consentirà mai? Assolutamente. Beh, ha fatto subito il nome di Cantone, la prima cosa che ha detto è il nome di Cantone. ma guardi, è il nome che io ho suggerito, proposto, sostenuto prima delle primarie. Solo che il dottor Cantone ci ha respinto questa, no, questo, questo invito, ci, sì, ha dato, ci ha detto che non era disponibile, che non se la sentiva di fare questa, questa battaglia. In ogni caso, Cantone, Saviano, altre persone. Ecco, come giudica l'intervento di Saviano? No, questo è curioso. Come giudica l'intervento di Saviano? Fuori luogo? Perché? Ma io considero del tutto legittima la discussione. Noi abbiamo fatto un grande fatto democratico. È legittimo che questo fatto democratico sia oggetto della discussione critica da parte di tutti. Ho capito, ma lui il primo giorno, la prima cosa che ha detto, la prima cosa che ha detto, è detto che bisogna azzerare tutto e candidare Cantone. Lei come risponde a questa cosa di Saviano? Che non era informato di quello che era successo a Napoli. E perché Bersani, secondo lei Bersani è andato troppo dietro a Saviano, il partito? No, io credo che Bersani sia legittimamente preoccupato della situazione in cui si è venuto a trovare il partito e la coalizione di centrosinistra. Mi sembra giusto il suo intervento, la sua sollecitazione, il suo richiamo, il suo appello. Senta, in conclusione non mi ha detto se lei si candiderà lo stesso, se si dovesse arrivare a un azzeramento che lei considera una sorta di golpe, mi sembra, no? Sarebbe una sorta di... Ma lei come lo giudica? No, ma anch'io, anche secondo me è così. I cittadini partecipano. Ecco, ma lei si candiderebbe lo stesso? Lei si candiderebbe lo stesso? Ne discuteremo con i cittadini napoletani, non faccio mai scelte individuali. Va bene, grazie Andrea Cozzolino, grazie di essere stato con noi. 19:56 e 30 secondi, pubblicità. Siamo qui alle 20 in punto dopo l'intervento di Andrea Cozzolino da Napoli, molto diplomatico, però le cose le ha dette molto chiaramente, è una follia quello che succede. Leggo oggi un bellissimo articolo di uno dei miei preferiti, Diego Gabutti, su Italia Oggi, il quale dice: Roberto Saviano comanda e Bersani prontamente obbedisce, non solo si rifaranno le primarie a Napoli, ma lo scrittore ha già scelto il candidato che vincerà. Bersani ha dovuto accettare la candidatura del magistrato napoletano Raffaele Cantone, scattando sull'attenti come un caporale quando il capitano gli dà del lavativo e ordina il presentatarm. Incassato il cicchetto da Saviano, il segretario del PD ha commentato a mezza voce, con l'espressione largamente imbronciata: Cantone è un perfetto candidato democratico per la poltrona da sindaco, ci avevo già pensato anch'io, testimone la mia signora. Straordinario. E quella di Cantone ha l'aria di una candidatura unica, a contrastarlo ci proverà forse Luigi De Magistris, forte anche lui di una doppia natura politica, ex magistrato e favorito dal Fatto Quotidiano. Ma volete mettere la sponsorizzazione di Roberto Saviano con quella di Marco Travaglio? Non c'è proprio gara. In base a un meccanismo politico e intellettuale misterioso, tipo le Madonnine piangenti, Saviano può dettar legge al PD e Bersani zitto. Beh, è stato fin troppo diplomatico Cozzolino, Parenzo? Sì, assolutamente, ma il fatto curioso è quello che se davvero dovessero correre due ex magistrati a Napoli, sarebbe una cosa piuttosto anomala, no? Cioè, Napoli davvero ha bisogno per rimettersi in ordine di due ex magistrati? La politica non riesce a tirar fuori? La cosa pazzesca è stata questa cosa temporale, cioè Saviano fa un appello a Repubblica TV e il segretario del Partito Democratico gli va appresso. Cioè, dopo. Una debolezza dei partiti assoluta, una debolezza del PD, ma perché due ex magistrati? Poi con rispetto per De Magistris che ha fatto una scelta politica, ma ti rendi conto, Napoli ha bisogno di due ex magistrati per ritrovare, come dire, una delle risposte a quella montagna di rifiuti, di corruzione che c'è? Questa è la sconfitta della politica, ma secondo me. Sì, questo può darsi, ma la modalità in cui il Partito Democratico sta gestendo questa situazione delle primarie, secondo me ha veramente dell'incredibile. Cioè, o trovano le prove di brogli giganteschi, pazzeschi, certo, eccetera. Questo avviene comunque dopo la proclamazione di un vincitore. Prima il vincitore viene proclamato, perché i voti sono i voti, no? E dunque la commissione deve proclamare un vincitore. Dopodiché ci sono le procedure per vedere se quei voti sono stati sono frutto di pressioni, di brogli e di altre cose. Il partito a un certo punto ha bloccato tutto, cose pazzesche, una cosa pazzesca. Devo darti una notizia però, Che notizia mi devi dare? L'autista Bruno è stato preso e portato ovviamente in ospedale per le cure di rito. Mi stanno chiamando decine di ex fidanzate dicendo che vorrebbero testimoniare il fatto che Parenzo è orgogliosamente eterosessuale. E quindi un danno d'immagine pazzesco mi ha fatto questo Bruno. Beh, potresti anche querelarlo, No, ma io non querelo mai nessuno. Però è un danno d'immagine pesante per uno come me. Beh, non c'è dubbio, la cui virilità è ampiamente, come dire, prova di bomba. Dimostrata stabile e dimostrata. Ecco, diciamo. Vabbè, intanto sentiamo il telegiornale della 7, se l'abbiamo, no? Mentana, dunque, puoi anche, puoi anche. Dura 12 minuti, quindi vado a prendere un taxi. I titoli durano, credo, intorno ai 12 minuti, sì. Via. Perfetto. È una situazione quasi insurrezionale in Egitto, fuoco e fiamme circondate dai blindati e tutte le sedi del potere, messa a ferro e fuoco anche la sede del partito di Mubarak, l'esercito spara ad altezza Duomo, ci sono 800 feriti, molti morti, tra gli arresti domiciliari quello di El Baradei. Nuovo videomessaggio di Berlusconi, ex fascisti, ex comunisti si sono uniti per farmi fuori col soccorso delle toghe rosse, ma l'offensiva sarà respinta, non sono intimorito dal fango, non ho paura di farmi giudicare, ne uscirò più forte, in Parlamento ho sempre vinto contro le sfiducie, faremo la riforma della giustizia. Ma l'assedio giudiziario al Premier non si ferma, fissata al 28 febbraio l'udienza del processo su frode fiscale e falso bilancio di Mediaset, poi saranno fissate le date per Mills e Mediatrade, l'inchiesta sul caso Ruby va verso il processo immediato. Il bunga bunga, soltanto una barzelletta, la verità non è quella di Ruby. Non ho mai visto coca nelle feste a Palazzo, parla Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti di Berlusconi ad Arcore, a casa sua, in via Olgettina, anche lei hanno trovato 18.000 euro nascosti in un cuscino. Scontro totale sulla RAI tra Masi e Anno Zero, dopo l'irruzione telefonica del direttore generale che risentiremo, Santoro annuncia, andiamo in piazza contro la censura, il ministro Romani all'Agicom, quella trasmissione ha superato ogni misura. Nuovo clamoroso capitolo giudiziario dell'emergenza rifiuti a Napoli, la procura ordina 14 arresti domiciliari, altri due, tra gli altri per l'ex vice di Bertolaso e per l'ex commissario straordinario Catenacci, indagato anche Bassolino, il percolato nell'immondizia veniva sversato in mare. Siccome abbiamo ampiamente sbeffeggiato anche noi il direttore generale Rai Masi per il suo intervento ieri sera ad Anno Zero, ci possiamo anche liberamente permettere, almeno per quello che mi riguarda, di dire che questa storia che un giornalista, che un conduttore televisivo chiami il popolo alla manifestazione, io la trovo, naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole, per carità, certo. Non può, nulla può essere proibito, una puttanata pazzesca, una cosa ridicola in nome della stessa libertà di stampa che è evidente, cioè no, proprio, proprio in queste settimane, se c'è una cosa che è evidente, che è solare, è che in Italia c'è il massimo della libertà di espressione, della libertà, il massimo, ho capito, ma resta alla questione di non Santoro. Punto. Non c'è nessuna differenza a quando un quotidiano come Libero, Il Giornale o La Repubblica lanciano delle campagne di stampa facendo 10 domande a Silvio, chiamando la piazza, facendo vabbè, quello si può fare quello che vogliono. Sono può... campagne di stampa, ma va benissimo. Perché le possono fare i giornali, i quotidiani e non un programma televisivo che è come un giornale? No, ma non perché? non è questo il punto. Ma sì, è così il punto. Allora, no, ma non è questo. Quando io sto libero, dicendo che è legittimo, sì, non sto libero, dicendo che non è legittimo farlo, stai attento, non sto dicendo che Santoro è un criminale, sto dicendo semplicemente che con Masi ha perfettamente ragione, pure con l'altro, come si chiama, con Sisto, quello di Rocca Cannuccia, ha perfettamente ragione perché lui può invitare chi vuole, può invitare, non è costretto ad accettare una persona che viene lì perché il partito l'ha designato, va tutto bene, però che si parta da questo per fare una manifestazione di solidarietà davanti al Tribunale di Milano sull'autonomia della magistratura e sulla libertà di stampa che mai come in questo momento è al massimo della sua potenzialità, francamente mi sembra ridicolo. Cioè, non... se uno come Santoro, per fortuna continua ad andare in onda, ma se uno come Santoro si vede recapitare la telefonata un giorno sì e l'altro pure di Berlusconi e del direttore generale Masi che gli dicono preventivamente che non puoi andare ma in onda, ma sono cose che accrescono l'autonomia di Santoro e Santoro lo sa benissimo, dai su è quel fenomeno che Aldo Grasso è quel fenomeno che Aldo Grasso ha ampiamente già analizzato più volte, insomma, no, per cui... ormai tutto ciò che fa Santoro diventa un media event, per cui lui ha già vinto, anche se appunto, dovessero andare solo 200 persone, lui ha comunque già vinto perché con il suo potere, con il suo ruolo chiama alla piazza. Dopodiché non ci vedo nessuna differenza tra la campagna del, di Libero per far dimettere Fini. Ma insomma sono cose diverse, Santoro fa parte del servizio. Se vogliamo proprio dirlo, se vogliamo proprio dirlo, Santoro è nel servizio pubblico, eccetera, eccetera, è un po' diverso da Libero, sì, dal giornale in teoria, no? Come Minzolini. Come Minzolini, infatti, ma Minzolini mica convoca manifestazioni, eh? No, magari fa altri errori, ma fa altri errori, ma non convoca manifestazioni. Io è proprio il fatto, è proprio il fatto di convocare una... il governo, le convocherebbe per sostenere il governo, scusa. No, ma è il fatto di convocare una manifestazione che la trovo una cosa veramente assurda. Sì, è singolare, ma fa parte di quest'epoca nella quale viviamo, no? In cui ci sono giornali che fanno campagne di stampa. Assolutamente. E ci sono trasmissioni televisive che fanno un'informazione come quella, un po' più spettacolarizzata, forte, con un punto di vista forte, fazioso, certo, non c'è dubbio. Quindi, Rinaldo da Roma, buonasera. Rinaldo, mi sente? Pronto, buonasera, dottor. Dica. Pronto? Scusi, no, purtroppo sto guidando, ecco, mi dica. No, mi dica, scusi, ha chiamato lei. No, sì, voglio venire in merito. Guardi che stasera di ambulanze l'abbiamo finita, purtroppo che là in provincia di Andria, là dove tutte era... Tutte andate da Bruno le sono ambulanze. Sono tutte andate lì, per cui siamo a corto un po' di ambulanze, per cui non mi solleciti su questo. No, è la guida purtroppo. Senta, no, volevo intervenire in merito alla manifestazione indetta da Santoro. Più che altro io volevo ricordare... Mi sembra più un eco alla manifestazione di Berlusconi e questo sinceramente mi sembra un fatto abbastanza pericoloso, perché porta in piazza lo scontro delle persone, cosa che invece sinceramente la sinistra dovrebbe evitare, lo scontro in piazza. Mm. Perché è chiaro che Santoro, portando gli elettori di sinistra a protestare davanti alla... a favore dei giudici, sì, purtroppo alquanto sconveniente in questo, magari un altro giorno, perché si potrebbe rischiare, ecco, questa è la cosa che secondo me... Ma io non lo so, speriamo di no. Come non è a favore dei giudici? È una manifestazione davanti al Tribunale di Milano per in solidarietà. Ho capito, è a favore dei giudici. Perché vengano attaccati. No, è a favore dei giudici. Fanno il tifo per i PM, fanno il tifo per l'accusa. Ma perché tutti questi? Ma perché tutti questi distinguo? Fanno il tifo per i giudici, per i PM, per gli accusatori. È talmente chiaro, talmente evidente, talmente lampante. Io non dico che è una follia, ma è così. Fanno il tifo per l'accusa. Punto. Pubblicità. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va. Cantala insieme a me, Parenzo. L'ambulanza va. Sempre meglio di una casa senza porte, di una lenta morte. Strega, strega. Le trasfusioni e tanta vitamina in più. Dei miei collassi non avrai ragione tu. L'ultimo seme e poi la mia sterilità. Mi hai tolto il meglio, adesso che mi resta? Che mi resterà? Tutto bisogna finito. Impararla questa. Che ebbrezza che mi dà, che emozioni che mi dà Renato Zero. È tutto finito. Più niente resterà, dire, nella politica italiana. Voglio dire semplicemente a Bruno che io comunque non andrò alla manifestazione di Santoro, ovviamente, lo volevo rassicurare, perché non la condivido. Bruno di Terra San Bruno. Di Terra San Bruno, aveva detto che... L'hanno ricoverato urgentemente, purtroppo. Non lo so, ma magari tenteremo di capire se... Prisma Ior, forza maggiore. Dove andiamo? Rinaldo, ha completato il suo intervento o no, signor Rinaldo? Sono in attesa, non so se ho dopo la pubblicità se dovevo ancora concludere. E che ne so, lo dica lei, qualcos'altro da dire? No, comunque non sono contrario, no, ecco, volevo far precisare che non è che sono contrario alla manifestazione di Santoro, è soltanto che trovo alquanto inopportuno vada nello stesso giorno. Vabbè, lei vede qualche pericolo per la... Non è giusto. Per la sicurezza. La sicurezza, ecco, lo trovo giusto a livello di sicurezza, ma però nel contempo lo trovo una decisione abbastanza... immatura da parte di un premier di rivolgersi al popolo No, ma io trovo una stronzata sia la manifestazione di Santoro che quella del convocato dal PDL del 13, per carità, cioè, vorrei essere chiaro su questo, cioè, è una cosa importante, sì, perché sì, perché insomma, sennò qualcuno può pensare che no, una stronzata in ogni caso, la manifestazione per protestare su cosa? Per carità, poi le manifestazioni organizzate da un partito politico vanno sempre bene, non è quel punto, però di che stiamo parlando? Cioè, di cosa stiamo parlando? Manifestazione di piazza per protestare contro un'inchiesta, eccetera. È contro i giudici, è contro una parte della magistratura, eccetera. Vabbè, ma sarà mica normale, no? Cioè, perché le inchieste della magistratura diventano, come hai detto tu prima, oggetto di tifo? È questo che ci rende assolutamente anomali. Perché voglio dire, l'anomalia è anche in alcune inchieste. Ma scusami, ma se le inchieste poi finiscono in un binario morto perché il GIP e poi il GUP non danno seguito alle richieste dei PM, nei paesi civili finisce tutto, basta, come è già accaduto altre volte per Berlusca. Ma dov'è il problema? E questo paese è continuamente in guerra con la magistratura, una parte politica in particolare, che è scatenata nel raccontarci che sono toghe rosse dappertutto. No, non è questo, lei, non è questo. È questo. C'è una parte della magistratura che c'è una parte della magistratura che, come è evidente, una parte della magistratura che ha ingaggiato da tempo una battaglia con il Presidente del Consiglio, e questo mi pare indubitabile. Ma l'indagato Berlusconi. Ma che c'entra l'indagato Berlusconi? L'indagato Berlusconi, allora. Che chiama alla piazza, perché protestiamo contro quelle. Ma il Pinco parla. Ma è qualunque. Il terreno migliore per Berlusconi, questo qua. È il terreno più. Il terreno. Ma che siamo al Sud America? Siamo ma alla ma finisce banana. Da questa Sud America, banana, queste stupidaggini. Forse no. Traffico. Ma del traffico, sì, è giusto che questo. Traffico. Chiamalo tu, dai. L'ambulanza va mentre la città. Finalmente sa che mostro sei, tu pietà non hai. E vorrei ricordare che, al contrario di tutti i giornalisti di destra che ci sono in questo paese di una certa importanza, quelli seduti a questo tavolo fanno il loro lavoro normalmente. Non hanno scorte, non hanno protezioni, non usano come taxi le loro scorte. E comunque sia, fanno una vita assolutamente normale, prendono gli aerei, i treni, camminano per strada, vanno a prendere il caffè. Quindi è molto pericoloso, non siamo il Presidente del Consiglio con i suoi 40 bodyguard. Quindi se lui ci aizza la gente contro, ci mette anche a rischio. Ed è bene lasciare una traccia documentale di questa cosa. Che mi resterà? Ti rendi conto? No. Ti rendi conto, no? Cioè, siamo noi a rischio, cioè Santoro dice di essere a rischio. Siamo alla battaglia finale. Sì, perché lei è tutto meraviglioso. Ma perché lo ha voluto anche Berlusconi, esacerbando i toni. Assolutamente, con questo intervento di Masi che non ha senso, per carità. Ma siamo anche. Siamo poi un Presidente del Consiglio indagato che chiama. Ancora che questo indagato. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Indagato. Perché quando tu dici Bruno. No, io lo sai perché rifiuto questa cosa, che quando tu dici indagato. Chissà cosa vuoi dire, indagato, dunque un po' mezzo colpevole. No, anzi, io sono un garantista. E allora perché dici indagato? Che vuol dire? Perché non fare il travaglio, non fare. Perché dico che un cittadino qualunque indagato, come ad esempio lo fu il grande Enzo Tortora, subì un processo. Attacchiamo morì con Enzo Tortora. A causa di quel processo e di quella mala giustizia, mandò a farsi processare, capito? Vabbè. Altro che manifestazioni di piazza, per dire no, non ci vado, no. No, non ci vado, comunisti, no, non ci vado. Va bene, quando è finito questa sceneggiata poi ripartiamo. No, non ci va. È finito? Traffico, via. Traffico. No, non c'è il traffico. No, c'è il traffico, via. Traffico. È già andato in onda il traffico. Allora, però una telefonata. Attenzione, pronto? No, attenzione. È così, Davide, attenzione. Che succede? No, mi riferiscono che da, come si chiama, da quel paese di, che ti ho detto prima, Terra San Bruno. Sì. L'ambulanza, i nostri amici infermieri hanno trovato la porta barricata. No. Sbarrata, sì. Ed è per forza, il caso era gravissimo, Bruno, ma non ha aperto, Bruno. Sì, sono io, sono dottor Crociani. Ma non ha aperto. No, non si preoccupi, che l'ambulanza io non ce l'ho bisogno, grazie a Dio. Ma apra. No, però lei, guarda, lei è molto simpatico, perché roba da pazzi, mica apre. Allora, io la stanno aspettando. Non possiamo utilizzare il servizio pubblico dell'ambulanza per nulla. Guarda, fino in questo momento, se mi danno la patente per portare un autotreno, vuol dire che sono idoneo per portarlo, grazie a Dio. Tutto finito, appunto, è tutto finito. Lei tutto a Serra San Bruno, comunque è Serra San Bruno, giusto? No, Serra con la S come Savona. Serra, vedi, abbiamo dato indicazioni sbagliate. No, non è Serra, è Serra. Serra San Bruno, esattamente. Serra San Bruno. Serra San Bruno. Via? No, la via no, non la posso dire in diretta. Ma come non la può dire in diretta? No, ma lo dica. Lo dica, non si preoccupi, allora, lo dica. Lo mandi lì vicino alla Certosa. Sai dove come la Certosa, quella che c'è a Pavia? Sappiamo cos'è la Certosa. Il grande silenzio? Sì, vabbè, ma che c'entra la Certosa con Serra San Bruno? Che c'è la Certosa là vicino? No, c'è la Certosa, come no? Si informi. Mi informo, che ne so. Non sapere tutte le Certose d'Italia. C'è una Certosa a Serra San Bruno. Infermieri... C'è la Certosa? No, ascolti, non è una Certosa comune, è una Certosa come quella che hanno girato il film Il Grande Silenzio. Sì. L'ha guardato quel documentario? Sì. Ecco, tale quale. C'è un documentario. C'è un e lì c'è San Bruno, praticamente. Ecco perché io mi chiamo Bruno. Povero Bruno che viene dalla Colonia in Germania, che ha fatto penitenza là, tutto là. Vabbè, la via esatta, poi là come fanno a trovarle, signori in camice bianco? Lì proprio sono vicino alla statua, gli dico, vicino al laghetto. Si mette là vicino al laghetto. Lo vedono subito ad occhio, proprio lo individuano ad occhio, diciamo, Bruno. Posso parlare, dottor Crociani? Dica pure. Senta, quello che volevo dire io è che quando si fanno quei processi così per televisione, per radio, no? Sì. Cioè non sta bene che uno martella sempre una persona, tutto qua. Ecco qual era il mio sfogo. Ma scusi, ma lei ci ha dato dei comunisti a noi. Ma pure dell'omosessuale, dei comunisti, scusi, ma uno che martella sempre Berlusconi. Ma uno che martella sempre Berlusconi dalla mattina. E che comunista è frocio come Parenzo, comunista omosessuale. Per carità, poi non è che è un insulto omosessuale per me. No, ma io non è che no. Lei ha dato a Parenzo del comunista e quello pure a me. E poi pure ha detto è pure omosessuale. No, io ho detto secondo me, io non ho le prove, perché uno che mi viene a dire che c'è uno che martella Berlusconi perché va con le ragazze. Sì. Cioè, è meglio andare con le ragazze che con i ragazzi, no? Che dice lei? Ma lei mi ha creato un danno d'immagine. Tanto per tornare alla famosa battuta di Berlusconi. Lei mi ha creato, caro Brunetto, caro il mio Brunetto della Certosa, mi ha creato un danno d'immagine pazzesco, perché ho tutte le mie ex fidanzate, nonché mia moglie, che adesso ha dei sospetti enormi rispetto a questo suo, a questa sua sortita. Mi ha creato un danno d'immagine pazzesco. Allora decida, o mi finisci di pagare il mutuo della casa, così come regalo, no? Come risarcimento del danno. Oppure la querela per diffamazione, ascolti un attimo, io non ho le prove che lei è un omosessuale, però uno che mi viene a dire, uno che mi viene a dire che mi parla, ma uno come lei non ha le prove circolare. Scusa, liberamente, allora di cosa devo dire? No, mi dia retta, Bruno. Uno come lei, non aggravi la situazione. Uno come lei non dovrebbe circolare liberamente. Mi dia retta a me. Vabbè, se lo dice lei, come posso dire? No, dia retta a me, amico mio. Lo faccio per il suo bene. Ascolti, dottor Parenzo, lei rimane tranquillo. No, lo faccio per il suo bene, Brunetto. Scusi, però ha dato del comunista anche a me, Bruno. Ah, già. Ma scusa, la vostra trasmissione, cioè una trasmissione come quella di cosa, no? Come si chiama? Come quella di Santoro, come la definisce? O come quella di Travaglio, come la definisce? È uno show televisivo, come dire? No, non è uno show televisivo, è uno show televisivo di parte. Una grande commedia, un grande dramma messo in scena. Dottor Crociani, ma guardi che dico una cosa molto più pesante di quella che dice lei. È di parte però, è di parte. Ma sì, è di parte. Questo non c'è dubbio, Brunetto, ma che dici? Come mi manda i matti, allora, da quanto è matto lei? Non è di parte, Santoro, non è di parte. Ma certo che è di parte, mi manda i matti perché dice delle banalità irritanti proprio, ma è evidente. Ascolti, io mi sono permesso, vi ringrazio ancora una volta. Di dire una stupidaggine, povero Bruno. Ma lei ci ha dato dei comunisti, ha capito? Ci ha dato dei comunisti, ma come lo siete? No, non lo siete? Ma no! Non lo siete? No. Non lo siete, secondo me lo siete. No. Secondo me lo siete, perché uno che martella sempre dalla mattina alla sera Berlusconi è comunista. Guardi, lei sa cosa vi sta martellando? Come potrebbe essere? Dirlo, scusa, come potrebbe essere? Dire... Non siete di parte, cioè non io almeno. Senta, si becchi questa canzone. Non ho capito. Senta. Questi erano i comunisti. Rivoluzione. Se volete mettere in cacciata se volete mettere in cacciara, fate come volete, che vi devo insomma dire. Lei non è che l'ha messa sulla, lei non è che tu un film intellettuale giliano, insomma, non è che è intervenuto, fate come volete, non è che te, non è che è intervenuto Pareto, cioè, non è che è intervenuto Bruno, lei non è che è proprio Bernard Henry Lévy, amico mio, insomma, no? È Bruno, comunque, giusto? Ascolti, posso parlare? Da sera dica Hegel, dica Hegel, prego, vai, dica Kant, dica Immanuel. Comunque non è una trasmissione obiettiva, quella che volevo sottolineare io, credo. Non è una trasmissione obiettiva, parliamo sempre di quelle fatte lì, parliamo. Ma che, cioè, i tribunali, cioè Berlusconi, che se ne vedesse il tribunale, voglio dire, perché dobbiamo fare queste trasmissioni di parte? E perché dobbiamo fare le trasmissioni? Che ci frega? Perché dobbiamo fare queste trasmissioni di parte? Allora la mia domanda sorge spontanea, no? La domanda sorge spontanea, che domanda sorge, Immanuel? Cioè, un domani che esce di scena Berlusconi, di che cosa parleremo? Non lo so, me lo dica lei, Immanuel. Voi la tradizione di parte, eccetera, di che cosa parlerà? Questo il mio coro. Ci inventeremo qualcosa. Beh, ci ha messo un po' di tempo per dire, per porre questa questione. Che devo dire, allora, è passato da la monnezza ai frosci omosessuali e andando a finire non so che cosa. Lei però una volta non era così, una volta non era così, da giovane non era così, ma non parlo di molto tempo fa, com'ero? Quando c'era quell'altro giornalista con i baffetti, come si chiamava? E chi era l'altro? Telese. Di quando c'era il signor Telese, voglio dire, che notoriamente è un anticomunista viscerale. Da quando è arrivato il dottor Farrelly? Telese che cos'era? Berlusconiano? No, mi scusi. Chi? No, assolutamente no, però diciamo che non era berlusconiano, questo è senz'altro che non era berlusconiano, però diciamo che era un po' più morbido del dottor Parenzo sul fatto quotidiano. Lei, amico mio, è irrimediabilmente irrecuperabile, glielo dico con affetto proprio. Va bene. Arrivederci, va bene. Bruno, arrivederci, dottor Crociani, mi dica quando mi volete chiamare, sono a vostra disposizione. Questo l'abbiamo capito. Però apra gli infermieri. Va bene, saluti il dottor Parenzo, apra gli infermieri. Un bacino Bruno. Ciao Parenzo, buona serata. Un bacio anche da parte mia, Bruno. Un bacino Bruno. Bruno, ma che cos'ha contro gli omosessuali lei? Io assolutamente niente. E allora? Questo ve lo posso garantire. Ho capito, ha detto meglio. No, io ho detto, è la stessa battuta che ha fatto il nostro primo ministro, no? Allora inchiniamoci tutti. Inchinati subito. Ma non è che lei deve ripetere tutte le cazzate? A me piacciono quelle ragazze, io non ho assolutamente niente contro gli omosessuali. Però ne sto alla larga, sai quelli che dicevo, io non c'ho niente, però basta. L'immagine del tubo di scappamento è un'immagine No, dottor Crociani. Ve ne dico un'altra, io vado in giro con le mutande di ferro. Cioè, no, come? Questa battuta della caserma, che neanche dei film porchi. Una cosa pazzesca. Borsa. Siamo qui alle 20.37, 800 24 00 24. Per chiamarci in diretta, andiamo in provincia di Reggio Emilia da Francesco, poi abbiamo da farvi ascoltare quello che ha detto Berlusconi al sito dei promotori della libertà. Allora, Francesco, buonasera. Non era il sito dei promotori della libertà, cos'era? Vabbè, comunque. Francesco, dica. Buonasera. Salve, senta. Dobbiamo salutare Parenzo un attimo. Non è importantissimo, certo, ci vediamo lunedì, amico mio. Perché? Dove sei? In taxi? Dove sei? Adesso si vado in taxi, prendo alla 7, domani devo andare a Todi, da Fini, Casini. Finché sei in taxi puoi rimanere, però no? Perché sto scendendo da una cosa, un casino. Sono in grande difficoltà in questo momento. C'ho Bruno alle calcagna, è un disastro. Bruno è lì che ti controlla. Ciao, amico. Ciao. Ci vediamo lunedì, lundi. Ma allora, quando torniamo a Strasburgo, a Bruxelles? Ormai abbiamo una sorta di accordo di ferro, no? Ah, questo è buono, Vabbè, arrivederci. Almeno una volta al mese siamo lì almeno per monitorare l'Europa sempre. Poi non parliamo mai d'Europa, ma insomma lasciamo perdere. Ma questo è la famiglia. Francesco, dica. Buonasera, allora. Luciani, salve. Ascolti, io quando vado spesso a Cuba, no? A Cuba? Che va a fare lei? A Cuba vado perché mi sono sposato con una cubana e poi ero un sinistroide tanti anni fa, diciamo adesso sono più pluralista. Mi capita spesso con questa gente, no? Che è molto cordiale, socievole, i cubani, e dico: ma mi parli dell'Italia, Francesco, come va? Come va? E io sempre dico: è così, c'è Berlusconi, lui parla, lui dice, ha il potere, è sempre nelle televisioni. Mm. E mi dico: ma è uguale al nostro Fidel Castro. Mm. Non è un paragone tanto bello per lui, per il nostro Silvio. Primo che non c'è paragone, secondo me, come statura. Ma però mi scusi un attimo, Francesco, io penso che per queste persone che paragonano Berlusconi a Fidel Castro ci voglia un trattamento sanitario obbligatorio, insomma, una cosa di questo tipo, ecco. No, non è come le dice, guardi, se ci penso bene ha un potere enorme, dice quel che vuole, fa quel che vuole, attacca sì. Tutti, cioè, dove si trova lui se chi è contrario lo massacra. Sì. Dove si trova lei? Dove si trova lei esattamente? Scusi, perché io il paragone a Reggio Emilia, Correggio. Correggio esattamente, no? In che via, in che quartiere? Che mi fa prendere per pazzo come Bruno. Francesco, abbia pazienza. Quando lui parla zapping, Bruno Forbice, che è un fascista. Sì, un fascista, non esagero. Ma sicuramente, ma quello ho parlato anch'io a zapping, non ti lascio parlare un secondo, almeno lei è un pochettino più malleabile, dai. Vabbè, ma questo lasciamo perdere adesso. Non è questo il punto, Francesco, ma è addirittura un fascista, il povero Forbice, che ha fatto? Ma che poveretto, non ti lascia, basta che dici, poveretto, Silvio, perché poveretto? Contrario Silvio, sa, signor Forbice, lei è molto, la sua trasmissione, lui ride, se la gode, quando senti parlare un attimino di cose che non piacciono, via, ti taglia subito, arrivederci, buonasera, ciao. Sì, però Francesco, il paragone che lei fa tra Berlusconi e Fidel Castro non ha alcun senso. Ma alcun me lo dicono loro, senza sapere. Ma chi loro? Chi loro? Non hanno una... Ma una... chi loro? Chi loro? Chi, io chi parlo sarebbe? Di tanta gente che vive a Cuba, dei cubani, loro ho capito, ma si rende conto al, ma... al loro Fidel, ecco. Vabbè, pazienza, penseranno quello che vogliono pensare, ma non... Ma il paragone non sta né in cielo né in terra. Non regge? Ma no, francamente no, Francesco. Meno male che non lo fa lei, se no avrei chiamato tre ambulanze, non una, tre ne avrei chiamate. Grazie. A quest'ora circo qua. No, purtroppo scarseggiano per le ubriacature che hanno le persone. Del venerdì sera, lei dice. Scarseggiano invece perché l'abbiamo mandato troppo lì a Serra San Giusto, là San Marco, quello che... Quello che era per Bruno, va bene, grazie. Serra Bruno, perché poi io sono un calabrese trapiantato e conosco questo Serra, però dare dei comunisti, so che uno è contrario a Berlusconi, mi sembra eccessivo anche da parte. Mandi l'ambulanza al signor Bruno, meglio, e non a me. Sì, ma già l'ho mandata, non si preoccupi. Ah, va bene, infatti. Grazie, Francesco. Già arrivano. Maurizio da Pescara. Maurizio, pronto? Dica. Pronto, mi sente? Sì, dica. Buonasera, Cruciani. Il mio pensiero per me è questo, insomma, semplicemente. Io cerco di capire, ma faccio... Mi sente? La sento, parli. No, mi scusi. No, voglio dire, io non riesco a capire. Tutti questi fatti che vengono attribuiti a Berlusconi, è possibile che nel centrodestra non si sia levata una voce, almeno una, insomma, che esprima il dubbio che se eventualmente questi fatti fossero provati sarebbe necessario che il premier si dimettesse? È possibile che c'è un muro così compatto alle spalle del premier? Ma guardi, di cosa sta parlando lei? Cioè della difesa di Berlusconi su che cosa? La difesa di Berlusconi, cioè che non c'è nessuno che mette in... Lei dice non c'è nessuno all'interno del PDL che mette in discussione il fatto che i comportamenti privati di Berlusconi hanno una rilevanza anche pubblico, comunque, perché quando si parla di inchieste c'è una difesa a riccio, naturalmente. Per quello che riguarda invece la condotta della vita privata, c'è qualcuno che dice che ci vorrebbe più sobrietà, che ci vorrebbe una vita privata diversa, che una vita privata che non è consona a quello di un Presidente del Consiglio, eccetera eccetera. Ma questo mi sembrava caramello, insomma, rispetto a quello che si potrebbe... Ma invece cosa dovrebbe dire un deputato del PDL, secondo lei? Mi faccia capire. Ma insomma, semplicemente, ma duramente, che se effettivamente fossero provate queste affermazioni, queste accuse nei riguardi Berlusconi, come minimo dovrebbe andare via, dimettersi. No, però scusi, non Maurizio. Non lo sento dire da nessuno. Sì, no, Maurizio, non lo sente dire a nessuno. La parola, se fossero provate queste accuse, è proprio il piano giudiziario che evidentemente non si accetta. Qualcuno dice che un'inchiesta giudiziaria su cose di questo tipo è un'inchiesta che parte da presupposti sbagliati, che viene fatta da magistrati politicizzati, eccetera, eccetera. Dunque è evidente che non discutono di questo. Poi un altro piano che secondo me è l'argomento più interessante, non è quello del processo, non è quello degli eventuali reati, che secondo me finiranno tutti nel nulla, ma questa è la mia valutazione naturalmente, è invece il piano politico, cioè un certo tipo di condotta da parte del Presidente del Consiglio è consona alla carica che occupa, e oggi se vuole c'è un interessante articolo di Giuliano Ferrara su questo su Foglio. Vabbè. Non c'è dubbio, io sono abbastanza sconvolto anche dell'atteggiamento della Chiesa, a dire la verità, essendo cattolico, perché ci è voluto questo putiferio perché si muovessero minimamente dalle posizioni. Ma cosa dovrebbe fare la Chiesa? Ma scusi, ma che significa l'atteggiamento filo berlusconiano della Chiesa? No, mi spieghi, perché non l'ho capito. Ma insomma, hanno barattato tantissimo. Ma la Chiesa fa il suo mestiere, che è quello di, su alcuni temi, di trattare col potere che in quel momento c'è. Dunque, non mi sembra così scandalosa la cosa. La Chiesa ha già perso sensi ampiamente con la storia degli omosessuali, insomma. Vabbè. Appiattirsi su Berlusconi, devo dire che la appiattirsi su Berlusconi, guardi, figuriamoci della Chiesa si appiattisce su Berlusconi. La Chiesa ha una tradizione, mi sembra che per adesso superiore a quella di Berlusconi. La ringrazio, Traffico, torniamo subito. Che nella prima repubblica erano fra loro avversari o anzi politici, quelli si sono messi tutti insieme contro di noi, contro il governo che è espressione della maggioranza degli italiani, e l'hanno fatto nella vana speranza di mandarci a casa. L'unica cosa che li unisce è conquistare il potere e far fuori Berlusconi con il soccorso delle toghe politicizzate. Queste toghe sono pronte a intervenire ogni qualvolta la situazione lo richieda. Sembra che io sia premier per sorteggio. Mi devo confessare che leggendo certi giornali mi viene da pensare che io sia Presidente del Consiglio quasi per caso, ad opera di chissà chi, come se fossi il beneficiario di un sorteggio, e non perché io, il mio governo, il mio partito e la mia maggioranza, oltre ad avere vinto le elezioni politiche del 2008, abbiamo vinto anche le elezioni europee e poi quelle regionali, quelle amministrative, abbiamo avuto una continua legittimazione. E vabbè, poi ce ne sono altri, hanno cercato di farmi fuori in ogni maniera, contro la magistratura, sovvertimento della volontà popolare, non sono mai fuggito al giudizio, ho la coscienza tranquilla, vado avanti e il fango ricadrà su chi cerca di usarlo contro di noi. Bene, bene, ascoltatori, in questa volata finale della Zanzara, Paolo da Venezia. Paolo, dica. Pronto, buonasera. Buonasera, signor Paolo. Io avrei, vabbè, il signor non mi serve. Non vuole il signore, bene, come la devo chiamare, mi scusi? Paolo e basta. Paolo, benissimo. Vorrei che lei fosse meno servo del padrone. Quale padrone? Qual è il mio padrone? Vabbè, non importa. Ma come non importa? Lei mi dice servo del padrone, mi dica quale padrone, sennò che senso ha? Beh, insomma, vabbè. Lasciamo perdere. Ma lasciamo perdere cosa? Mi dica quale padrone, abbia pazienza. Il padrone, Silvio. Ah, io sono servo del Silvio, benissimo. Comunque, non importa, passiamo ad altro. Lei dice, lei è un servo, passiamo ad altro però. Mi faccia rispondere, abbia pazienza. Era solo per dire a Parenzo... Sì, che non c'è più però, non può rispondere, non c'è più. Allora, no, ma lei vada pure, continui che mi piace, continui. Io volevo dire che a Parenzo deve andare a scuola di imitazione. A scuola di imitazione. Quando imita il mio ex sindaco Massimo Cacciari, Sì. Non gli assomiglia per niente. Neanche per vabbè. Che voleva dire? Manco per il cavolo. Volevo dire manco per andare al gabinetto. Insomma, non sia greve, non sia, ci avviciniamo alla conclusione di questa giornata. Stiamo andando a cena, almeno per quello che mi riguarda, non voglio avere scompensi di nessun tipo. Però le dico una cosa, caro Paolo, sulle imitazioni, che siano quelle di Parenzo, che non è un imitatore peraltro, siano quelle di altre persone, ci sono i giudizi i più vari. Alcuni piace, tutti. Altri no, insomma, fa parte del gioco. Insomma, sì, no. Ma solo che però, insomma, va bene, allora lo dico con la voce sua anziché voler imitare colui che non è in grado di imitare. Vabbè, secondo altri invece è molto bravo. Io ero uno dei centralinisti del comune di Venezia e la voce del mio signor sindaco la conosco bene. Però scusi Paolo, abbia pazienza, la voce del sindaco non è che bisogna essere centralinisti del comune di Venezia, la voce di Cacciari la si conosce, perché Cacciari è un uomo pubblico. Conosce, Parenzo la imita male e peggio. Va bene, benissimo, accettiamo questo giudizio. Come lei sa, siamo aperti. Siamo aperti a tutte le. Non ho la verità in tasca. No, ecco appunto. Grazie. Buonasera. Dove andiamo? Roberto, provincia di Padova, veloce Roberto. Sì, buonasera, veloce. Volevo solo fare una riflessione sull'invito a non pagare il canone che è corrispettivo all'invito a non pagare le tasse o le quote latte altre volte, che ritengo che sia inaccettabile se viene da un uomo di Stato, e secondo me evidentemente è la dichiarazione di uno che è contro lo Stato, e questa mi sembra caratteristica peculiare proprio della nostra classe dirigente. Scusi, allora lei parla di quelle indiscrezioni secondo le quali Berlusconi avrebbe detto ieri durante una cena del PDL, di una deputata del PDL, che non bisogna pagare l'età e il canone, eccetera, eccetera. Mi riferisco a questo, ma non ho bisogno di far nomi, perché esortazioni di questo tipo nel tempo ne sono state fatte molte rispetto alle tasse e anche rispetto alle quote latte. Allora la mia riflessione è questa, che c'è veramente qualcosa di strano, se non di pericoloso, se continuiamo ad attribuire il potere a persone che sono così apertamente contro lo Stato. Va bene, registriamo anche questo, anche se nel caso di Berlusconi non erano frasi ufficiali, dette. Comunque Berlusconi ha detto più volte, non bisognerebbe pagare, se continua così, non bisognerebbe pagare il canone, eccetera. Non mi pare una cosa nuova da questo punto di vista. Dove andiamo? Antonio da Torino, dica. Salve signor Cruciani. Dica. Volevo soltanto dire, stavo ascoltando prima, che le danno del comunista, del servo delle persone, e credo che ci siano da parte dei radioascoltatori un po' di confusione. Molta, però va bene lo stesso, siamo qui. Però la mia telefonata era per questo, volevo farle a lei la domanda, anche al signor Parenzo, che sicuramente mi avreste dato sicuramente una risposta molto intelligente. Ma in questo momento sicuramente difficile nell'area mediterranea, lo stiamo vedendo, anche quello che è successo poi oggi in Egitto sicuramente ci mette un po' in allerta, un po' tutte queste manifestazioni che si continuano a paventare, che siano da parte della sinistra e da parte della destra, anche se mi preoccupano molto e c'è un certo timore più che una paura a queste manifestazioni della sinistra, che possano provocare veramente degli incidenti, affinché poi si possa sempre dire che ci sia uno Stato che veramente dia addosso ai manifestanti, dia addosso a questo, oltre al caso del caso Ruby in questo periodo. L'Italia, scusi un attimo Antonio, la interrompo subito perché fra poco devo concludere, ma non mi sembra che siamo in una situazione simile a quella dell'Egitto. La ringrazio, andiamo a Emilio da Milano velocemente. Sarò breve, buonasera. Dica. Ho sentito la notizia che la questione della casa di Monte Carlo è stata archiviata, anche perché le carte arrivate che dimostrerebbero sono ininfluenti. Così dicono i magistrati, sì, ma il punto secondo chi ha aperto questa campagna sulla casa di Monte Carlo non è l'inchiesta della magistratura. No, d'accordo, quello che mi sto chiedendo, siccome si fa sempre una distinzione tra responsabilità penali e le responsabilità politiche e morali, ecco,